Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Già iniziato il concorso Fuori dal Giro per il Porretta Film Festival che seguiamo, e Il vento soffia dove vuole sarà la proiezione protagonista di questa sera alle ore 21 al Cinema Cursal di Porretta. È una produzione che vede la regia di Marco Righi e racconta la storia di un protagonista sull'Appennino tosco-emiliano all'altezza di Reggio Emilia, ecco, per darne un'idea. Quindi un'ambientazione da Castelnuovo nei Monti a Pietra di Bismantova, a Carpineti, insomma anche lo spaccato di immagine quanto mai affascinante. Questo ragazzo che conduce una vita tra l'altro appunto legata al territorio, dotato di una forte sensibilità e anche spiritualità, avrà modo di conoscere diversi motivi di crescita. Adesso in maniera immediata ho dettato qualche linea emotivo di conversazione con Marco Righi che ho intervistato, e a tal proposito sentiamo la nostra conversazione. Con la regia di Marco Righi al Porretta Film Festival, il concorso Fuori dal Giro per la giornata di giovedì, Il vento soffia dove vuole. Il regista Marco è qui con noi, al quale do il buongiorno. Buongiorno, grazie Marco e benvenuto. Grazie, buongiorno. Parliamo di un aspetto anche geografico ben particolare sul quale magari ci soffermiamo. Siamo sull'Appennino tosco-emiliano. La location, come si dice adesso, ha contribuito nella narrazione del tuo film? Sì, sicuramente la location, diciamo il paesaggio, è stato fortemente voluto nella mia decisione, ecco, anche iniziali della scrittura del film. È un Appennino in realtà più legato alle mie terre, quindi io sono reggiano, quindi l'Appennino è reggiano, però sì, siamo sempre nell'Appennino tosco-emiliano. Comunque sì, è stato un fattore rilevante, è stato voluto, è stato cercato e siamo riusciti ad ottenerlo, ecco. Quando hai iniziato questa narrazione, Marco? Allora, il film è stato scritto più o meno, adesso vado un po' a memoria, in contemporanea anche con il triste periodo, insomma, del Covid, nel senso che è stato uno dei fattori per cui sono riuscito ad approfondire, ecco, questa storia nata probabilmente verso il 2018, ecco, 2019 appunto. Mentre il film è stato girato nel maggio del 2022, quindi dello scorso anno. E per quanto riguarda, entrando nel racconto con questo protagonista, Antimo, ce ne puoi parlare? Ma allora, diciamo che più in generale il lungometraggio Il vento soffia dove vuole è un film che è nato da un presupposto, ecco, diciamo, di ricerca legato al sacro, alla spiritualità, che può, ecco, rientrare anche, diciamo, in un film cosiddetto anche religioso, ecco, per alcuni effettivamente quando si parla, no, dell'uomo in qualche modo in contatto, ecco, in comunicazione con una divinità, ecco, si può anche parlare appunto di spiritualità. In realtà io credo che sia più un film che ricerca appunto, ha un focus sull'esperienza terrena dell'uomo. Chiaramente è un film con una forte dialettica religiosa, perché è un film anche che parla di fede, però è una fede che, insomma, non è solamente contingente, diciamo, all'ambito religioso. Ed Antimo è un ragazzino che, per rispondere alla tua domanda, è un ragazzino che nasce appunto in questo borgo un po' disperso dell'Appennino, con un padre che lavora in una stalla adiacente casa sua, con una sorella minore e di pochi anni meno, e fin da ragazzino conosce, diciamo, scopre questa sua vocazione. Poi appunto nel film, non voglio raccontare di più, avrà un seguito, ecco. Tra l'altro questo ragazzo che ha una vita con dei percorsi assolutamente comprensibili, con quelle che sono le sue radici, anche il rapporto sentimentale che si attiene a tutto quello che è appena stato descritto, poi improvvisamente ci sarà una svolta, ma di questo per chi vedrà il film avrà modo di andare in approfondimento. C'è già un nuovo progetto in vista per quanto riguarda il tuo modo di raccontare? C'è già un progetto, sì, un progetto che riguarda sempre, diciamo, l'ambito del territorio in cui sono appunto nato, che è il nostro territorio, che è l'Emilia Romagna. È, diciamo, un film ancora sulla provincia, come i miei primi due, come Il giorno della vendemmia, che è stato il mio primo film, il film d'esordio, e Come roe il vento soffia dove vuole. Film con forse no, non che Il vento soffia dove vuole non sia poi è un piccolo film, ma sempre mantiene delle ambizioni. Anche questo nuovo progetto ha delle ambizioni, che dal punto di vista economico è un film probabilmente più dispendioso, dunque bisognerà capire nei prossimi mesi se riusciremo a trovare anche quei giusti percorsi che possono portarlo, ecco, a riuscire a farlo, ecco, in questo senso. Il vento soffia dove vuole, la regia di Marco Righi qui con noi, sarà per il concorso Fuori dal Giro al Porretta Film Festival nella giornata di giovedì 7 dicembre. Io ti ringrazio tantissimo per questa breve ma esaustiva conversazione di anticipo per quanto riguarda la proiezione, e ti auguro buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Don't you know, but don't you know, you can't hide. No, no, baby, when you give it up, it's only enough to get me by. You're playing a game, it's so plain. You want me to win. I'm willing to play whatever you say, if love is the end. Playing your game, baby. Your game, baby. Just you and me. Playing your game, baby. You stop. You know what you got is what I need. Oh yes, indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Ooh-wee. That you're playing a game. It's so plain. Want me to win. Girl, I'll play whatever you say, if love is the end. Fate il vostro gioco, Rieve Plus. 8:47 minuti e terminata la settimana con la prima colazione in diretta, il Breakfast Club, e quindi avremo modo poi per l'8 gennaio, come ben sapete, l'8 dicembre, scusate, sono già andato oltre, no, 8 dicembre è il momento in cui si addobba l'albero di Natale, si fa il presepe, e come ogni ricorrenza l'anno scorso ho voluto portare i miei auguri con una natività particolare, che tra l'altro starebbe bene anche con la rubrica in mostra di oggi, per cui anche per il 2023 ci saranno gli auguri molto particolari, chiaramente interpretati. Ho voluto dare attenzione la scorsa stagione con questa natività, questa volta invece a due personaggi nel presepe. Insomma, questa è un'anticipazione per quanto riguarda i consueti auguri di buone feste, visto che l'8 dicembre si inizia con gli addobbi. hobby, con l'albero di Natale, con il presepe e quant'altro. La nostra colazione termina qui, a breve l'Edipeo enciclopedico. Tra l'altro saluto uno degli Edipei, Roberto Raspadori, che è qua in redazione con noi. Dopodiché Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e l'altro Edipeo. No, c'è stato ieri l'altro Edipeo, ma lo saluto lo stesso, Piero Di Domenico. Oggi avremo Francesca Clementoni e la puntata che porterà a conclusione la mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, sarà con The Radio Rock, Andrea Gozza e Angela Zocco sui 103.1 fino alle 12.30. E la neonata coppia dell'arte, la rubrica in mostra con Viola Balugani e William Piana, quest'oggi impegnati per un'altra conferenza stampa che porteremo poi in mostra giovedì prossimo. Il Breakfast Club vi augura un buon weekend esteso e quindi puntuali alle ore 7 di lunedì, Breakfast Club, e dal vostro William Piana un caloroso abbraccio e un buon ascolto sui 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ah, last minute, scusate, poi mi dimentico di me. Chiaramente questa sera sarò al binario 69 per DJ set, come ogni giovedì sì e un giovedì no. Questo è un giovedì sì, per cui sarò al binario. Vi aspetto dalle 19.30 fino a notte. Sarà intramezzato dal concerto e quindi binario 69, già sede del Bologna Jazz Festival. A lunedì!